Sì, la radio sì, vabbè, ci avevo acceso la verità, stavo ascoltando, però non è che sono entrato. Sto mangiando, c'è nato un po' di sileve, cioè c'è nato, mangiato un po' di sileve, fatto un pranzo di lusso, cucinato fuori. Va bene, va bene. Sì, in pinetta ho cucinato oggi. Rispondi al telefono, rispondi. Sono tutte stronzate. appunto Borghis, non ha fatto proprio nulla. Sai cos'è Antonio? È un magna magna, è un magna magna. Io non sono magna magna, ma mi sono già attaccato nel suo posto. Come videogioco mi faccio solitario a mano. Quando non era mia moglie che c'era 9 mesi di incinta, mi faccio solitario a mano e faccio le cappe. E allora, ah, sei computer? E c'è ancora per la voz, no. Per quello che stavo qua, ho buttato in casa, mi ha messo un giro, quindi vado, come fa il super fatto, non c'è un centro storico. Spendo quei 5-6 euro, quelli che sono, bevo, compagnia, mi diverto, eccetera, eccetera, no, no, no. No, cioè così, Antonio, così, lo computer, tecnologia, e bomba, ma cosa cacchio, c'è una puta, il tuo... La verità mi preferisco sentire un po' la radio, ascolto un po' la radio e se devo fare qualche chiacchierata mi faccio qualche chiacchierata, né più né meno, poi gira il poverino e circa. E appunto per quello, se voglio mio andare in coso, vado col tre e se la via in culo. E mi trova direttamente su internet, in automatico, e non c'è nessun problema. Mi vediamo quello. Allora, io ti faccio sentire qualcosa. Aspetta. Menu. Eccolo qua. Senti, qua. C'ho tre fogli oltre con la carta, c'ho le, non ne ho solo uno, ne ho, solo tre, ne ho tre di quei telefonini, non voglio da giocarmi. Vabbè, scherzi da là, ti comprate? Regalatemi, allora ce l'ho accanto io, più di un anno e mezzo ce l'ho addirittura, la rovina nei siti, poi mi scarico le canzoni e mi diverto. Se vuoi lo scarico per dire su CD, mi basta avere il coso. La Gigi mi scarica su CD. Buono, buono, buono. Cerchiamo un C3. No, è un telefono di quelli tre, di quelli modello vecchio lì. Sembra una cabina telefonica, sembra. Te ne ricordi di quelli tre? Sì, sì, già me lo ricordo. Ma sa quel numero 10. Un'altra che seguo la melodia che voglio. Per dire, come faccio l'esorcista, adesso per dire qua. Guarda, senti questa. Che ci sono qua da scaricare se voglio su magari che metto e aspetta senti questa qua. Non è venuto, l'utente che l'avevi chiamato non ne può più di sentirla e la prega di non massacrargli più i coglioni, grazie. Ah, discorso te lo scarico subito, c'è bisogno di avere il computer, no? Giusto? Ma è venuto. Non ti prego. Cosa? Aspetta, ma è venuto, si chiama questa cosa. Non ti avrei chiamato. E poi te lo scherzo dei piccoli. Allucinate. Senti. Malvenuto? Se non senti da lei chiamato, non ne può più di sentirla e la prega di non massacrare più i coglioni. Grazie. E allora? E se vuoi questo da caso, aspetta. Io sono lì e qua e ce ne fosse. Ma quella della segreteria telefonica è troppo attore. Quello è bello, sì. C'è questa, qua, senti questa. Tutto quello che ha fatto sui piedi, l'ha fatto all'altra, non te l'ha fatto all'altra, la verità. Io ci avevo 26. Poi, diciamo, questo è da casa, diciamo. Ma ci vuole la catastrofe, però purtroppo ci vuole la carta se non tu accetta, Beh, la compro tra le 3. Ma la cabina che fuori capa, poi farò di cosa mi la videochiamata. Come? Puoi fare anche la videochiamata, ti vedi di persona, amico, l'altra persona che hai già se sono tre fuori di tre uguale. Ah, capa, e cosa costa la carta motore? Io non so, ma sono a tempo non la piglio la carta della vita. Mi sembra che non è 10 euro mi sono speso una cosa del genere. Se vuole dare me la compro la carta. E adesso vedo un po' là, se hai trovato quello di questi qua te lo regalo. Anche perché c'è un telefonino 3, che fa anche, cioè 3, era un 3 poi è stato modificato o mi tele team, quindi se ce l'ho come te lo regalo uno di questi qua là. Vabbè, quando me lo regali? Non so se devo andare da coso. Fanno sistemare con l'altro telefono della Motorola e poi ti faccio sapere. No. Così mi fa la videochiamata. Chiamata. Poi ci rivediamo, grazie, ci guardiamo in faccia. Dico, dove sei? Tu no, sono in bagno, no, sei al bar, sei gestibile del bar. Quando si continua di fare le cose, i filmati. Ma c'è un'altra camera di bella, veramente bella c'ha. Sì. No, ma poi è bello che almeno non ci si fa videoconferenza, diciamo, no? È bello. Sì, già lo so. Aspetta un secondo. Papà. Ecco. Sono entrato. Cavaroci. Tutto a posto? Tutto a posto. Meglio così. Io. Ma mangiato hai, dottore? Dimmi. Mangiato hai? No, ancora no. Chiaramente, fra poco. Fatto un assaggio poco fa. Ho fatto. Di queste zucchine. È buona, buona, buona proprio. Zucchine ripiene? Sì, io posso fare zucchine ripiene, ho fatto tutte le zucchine. Sono uguali, non cambia nulla. Ma con la pasta asciutta te le fai? No, normali. Le fai nel fornetto, no, normali. Capito, che condimento metti? Le zucchine, poi c'è le uova, il panzerotto, poi non mi ricordo cosa ci mette su Simone, il resto. Comunque sono veramente buone. Uova è buona, non mi ricordo adesso il resto. Vai, già sono buone. Che sono buone, però ci mangiate metà pentola. Scusa, stavo sbagliando. Ti ho sentito. Ma me la c'è, se la mettiamo male nel posto, se andiamo qua così. E speriamo di no. Speriamo di no. Comunque sono buone. Metà pentola me la ci mangiato da sola. Di zucchine ripiene. Che la fattina li ha fatte. Sono separato il peperoncino di sembra, sono ricordo male, poi boh, ripeto, la verità non l'ho guardato. Buono, il peperoncino può fare a tirare il bicchierino. E fa sollevare il pisello, lo so anch'io.